I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Sull'avvitamento della crisi russa ha contribuito, contrariamente a quanto si pensa, più il petrolio che le sanzioni decise da Stati Uniti e Unione Europea. L'economia russa, infatti, è un'economia fortemente, pericolosamente sbilanciata tutta sull'export energetico, gas e petrolio, che non è riuscita a costruire negli anni di Putin e Medvedev un'economia che abbia anche altre fonti di reddito, con la creazione di una classe di imprenditori, di una classe media in senso lato. Ecco perché il crollo vertiginoso dei prezzi del petrolio, ormai vicino ai $50 al barile, hanno aggravato una crisi russa dovuta, sì, all'inizio al blocco di alcune esportazioni e alle ritorsioni russe che ne sono conseguite. A questo punto però tutto l'asse si sposta sui rapporti di forza di carattere politico. Ieri il presidente Obama ha dato il via libera alle sanzioni decise dal Congresso americano, aumentando quello che è il pericolo principale in questo momento in Russia, ossia l'incertezza sui contratti futuri e non solo su quelli in essere. Ma è difficile immaginare un'America che tragga vantaggio da una debolezza continua dell'economia russa e della situazione politica russa. Al di là del danno economico in senso stretto, pensiamo che solo per quello che riguarda l'Italia noi avremo almeno 1 miliardo di euro in meno di esportazioni verso la Russia. Dal punto di vista della stabilità politica, conviene veramente ai paesi occidentali avere una Russia economicamente in ginocchio e che dal punto di vista finanziario rischia il collasso? I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Sono passati pochi giorni da quando Roma ha annunciato la propria candidatura per le Olimpiadi del 2024, che ecco che si infittisce il numero delle città e delle nazioni che si candidano ad ospitare i giochi. Ma forse la decisione più interessante presa da un paese è quella degli Stati Uniti. La scorsa sera hanno deciso di rinviare l'annuncio di quale città candideranno ad ospitare le Olimpiadi del 2024. In corsa ci sono Boston, Los Angeles, San Francisco e Washington. Perché hanno deciso di rinunciare? Questo forse è l'esempio più interessante. Perché hanno detto che così potranno avere più tempo per dialogare con le autorità olimpiche in modo da candidare la città che avrà più chance di vincere e diventare così la sede delle Olimpiadi. Ma non dovrebbe essere una gara sulla base di pari opportunità? Sembra di no, perché gli stessi americani hanno fatto notare di aver vinto già 2 volte le Olimpiadi estive ed invernali fra il 98 e il 2002, perché 5 dei più grandi sponsor del Comitato Olimpico Internazionale sono americani. Non solo, la NBC Universal, una delle più grandi reti televisive americane, ha appena rinnovato un contratto da $8 miliardi fino al 2032 per i diritti delle Olimpiadi. Come dire, è vero che nello sport l'importante è partecipare, ma per vincere bisogna anche finanziare. Seguici anche in video su rds.it e radio24.it.